Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 24, lezione 19. Il libro più importante è lo Zohar. Qui nello Zohar c'è la luce. All'interno dello Zohar vedi i margolot grandini. E questo è il commento di Ari. Io faccio anche uso del libro Gli otto cancelli, scritto da Ari. Tutto ciò di cui parlo proviene da queste fonti. Nessuna delle parole viene da me stesso. Uso solo Ari, Zohar. Egli è il commento di Yeshua Ashlam. Quando leggi lo Zohar, ogni cosa è lì, l'intera struttura del mondo spirituale, eccetera. Tu non hai bisogno di altro. Renditi ricettivo mentre stai leggendo e non aver paura per le strane parole. Naturalmente ci saranno molte cose che tu non puoi capire, ma continua. Non aver paura anche quando ti manca la comprensione. La luce è lì per te. Devi solo renderti ricettivo. Ovviamente avrai un sacco di domande, ma sii paziente. Sul web c'è molto materiale e le risposte sono nascoste in uno di questi scritti. Mentre stai leggendo, è possibile che tu abbia l'ascensione di non capire. Accetta questo sentimento. Quello che tu hai bisogno sono le domande. Ma perché? Perché è scritto così? Hai domande? E quando il tempo è pronto, le risposte ti saranno rivelate. Ricorda, non c'è comprensione in Kabbalah, solo domande. Le domande devono sorgere in te perché nascosta. In ogni domanda c'è la luce. Le domande sono brevi e solo quando hai mancanza la luce può e ci entrerà. Cerca le risposte a modo tuo. Questo sarà più prezioso di quando un'altra persona ti dà la risposta. Costruisci le domande. Il progresso nella Kabbalah è quando non capisci. È un paradosso. La comprensione è da questo mondo. E la Kabbalah si contraddice a questo mondo. Quando hai la sensazione che non capisci, sappi che questo è un progresso secondo la Kabbalah. Quando impari la Kabbalah devi lavorare su te stesso. E questa non è l'unica cosa. Allo stesso tempo lavori per il tuo ambiente. Sappi che il mondo esteriore non lo comprende questo e non vede quello che stai facendo. Non andare fuori ad aiutare le altre persone. Impara la Kabbalah, questo è l'unico modo per aiutare gli altri. Il tuo aiuto è molto più forte quando impari la Kabbalah. Ha molto più valore di qualunque aiuto tu pensi di poter dare al mondo esterno. Vediamo ad esempio il suicidio. Lo facciamo usando le cinque domande eterne. Che cosa? Quando? Perché? Dove? Chi? E le cinque risposte eterne. C'è mancanza nella prima. Diciamo il 20%. Qual è la prima mancanza? Tutto riguarda la reazione. La sua reazione è sempre un'altra persona è colpevole o qualunque cosa. Lui ha mancanza considerando la sua reazione. La seconda domanda ha la risposta di ora. Qui vediamo che lui rimane nel passato. Lui che esperienza il desiderio di suicidato, di essere suicidato. Non importa quale sia la situazione, io capisco, ma in realtà egli pecca agli occhi del Creatore e pecca considerando la propria vita. Deve vivere nel presente e non rimanere bloccato nel passato. Quando gli manca la forza di stare nel presente, lui ha un problema. Tu puoi solo indicarglielo, ma lui deve fare il lavoro. Deve guardare alla sua propria reazione e deve metterla nel presente. Quando rifiuta questo lavoro, nulla gli sarà d'aiuto. Ora vediamo di nuovo che c'è una mancanza del 20% perché rimane nel passato. Guardiamo ora alla terza domanda con la risposta correzione. La terza domanda è perché? E la risposta, eterna risposta, è correzione. Ogni cosa è correzione. E quando sta nella fase di trascurare, lui non può correggersi e lui ha mancanza per un altro 20%. È quando prendiamo la quarta domanda con la risposta in me. Dove in me? Sii consapevole che questa persona non può guardare dentro di sé. Sempre le altre persone sono colpevoli, non può guardare dentro se stesso. E di nuovo. C'è carenza per oltre 20%. La quinta domanda è con la risposta me. Ma lui non si sente mai in colpa. Altre persone stanno commettendo errori. Lui è ok, allora abbiamo carenza per il 100%. Questa persona non ha senso per la vita o qualsiasi altra cosa. Trascura il lavoro su se stesso. È quando una persona non può trovare, lavorare su se stessa. Non può lavorare con queste cinque domande e risposte, non c'è più alcun valore nella sua vita. Non c'è prospettiva, niente. Quando una persona arriva a questo punto, sappi che questo è il punto del suicidio. Non ci sono desideri. E quando una persona non ha desideri, è giunto al punto zero. Il pensiero per il suicidio sorge. Lui deve conquistare questo pensiero e quando lo fa è pronto per la cabala. Ora è pronto a ricevere le risposte da dentro e da sopra. Questo lo riporterà in vita. Diventerà un bon vivant perché una volta era nel punto più profondo. Aveva sperimentato la più profonda delusione. Queste domande e risposte eterne sono molto importanti. Quando una persona non è capace di dare risposte su queste domande eterne, ha già perso il 50% delle sue forze. Sa che il suicidio si sta avvicinando. Il desiderio per fare suicidio. Qualunque sia la situazione, sappi, è tutto sulla tua reazione. Sto parlando di te e dei punti di forza dentro te. Quando perdi il 50% della tua forza, non sei più in equilibrio, hai pensieri negativi, saranno lì e la voglia di essere morto può essere travolgente. Incontri una persona e vuoi aiutarlo Dai a lui queste cinque domande eterne e cinque risposte eterne. Non importa quale sia il problema. Questo è tutto quello che puoi fare, perché non sei ancora corretto. Sciogli la tua mancanza e attraverso questo dai a lui anche un piccolo aiuto. Solo quando tu lavori con queste cinque domande e risposte, ti purifichi e attraverso questo aiuti gli altri. Cerca di capire questo. Purifica te stesso e sappi che mentre lo fai, stai aiutando le altre persone. Avere il desiderio di diventare una persona migliore e sapere allo stesso tempo che questo desiderio ti è stato dato dall'alto. Lo porti nel presente e fai le correzioni. Tutti quelli che vivono intorno a te avranno e sentiranno il vantaggio del tuo lavoro. Non ci sono miracoli. Le persone vogliono credere nei miracoli, ma il miracolo deve aver luogo dentro di te. E puoi fare questo lavorando molto duramente su di te. Renditi ricevibile e allo stesso tempo ti stai purificando. Ma questo lavoro è l'ultima cosa che l'uomo fa. Tutti vogliono avere successo senza alcuno sforzo. Non voglio parlare di meditazione. Conoscere il lavoro con queste cinque domande e cinque risposte è meditazione. Meditazione significa yihud, unità. Più avanti ne parlerò di più. Ho trovato qualcosa di meraviglioso. Sto leggendo il libro Gli 8 cancelli diari. In questo libro c'è una formula su come l'uomo impara. E lo Zohar fornisce una spiegazione attraverso le lettere. C'è una formula per i nomi, le parole, eccetera. C'è un nome speciale del Creatore. E quando pronunci questo nome con la giusta kavanah, intenzione, perché la giusta kavanah è necessaria, allora tu puoi alzarti. C'è una storia nella Bibbia che ci parla di un uomo malato che si alza dal suo letto. Non posso ancora spiegarlo perché non ho finito il libro, ma più tardi ti dirò di più su questo. Sappi che non ci sono miracoli a meno che noi siamo preparati per questo. Vediamo le cose come miracoli, perché non siamo preparati. Ma in sostanza non ci sono miracoli. Ci sono solo purificazioni punti di forza del creatore. E il creatore ha un nome. Il creatore ha quantità di nomi, ma quando prendi le prime lettere di un certo nome del creatore, vedi un nuovo nome. Nome significa forza e questa forza ti chiama. Questa forza ti aiuta a correggere te stesso. Ti rende più ricettivo, ti dà energia, eccetera. C'è una gran quantità di forza nel nome del Creatore. Ma prima hai bisogno dell'ultima misura della forza del dare. Senza la forza del dare nessuna formula ti aiuterà. La nostra carenza, la mancanza dove tutti noi abbiamo lavorare sull'aspetto di concedere, vedere gli altri come fratelli e sorelle. Non perché vuoi essere una persona di buon cuore, ma perché è nel desiderio del Creatore. Non c'è altro modo. È una questione di dare o morire. Ora leggiamo dal testo del manuale per la purificazione interiore. Punto 3. Ci sono molte distinzioni di gradi e definizioni nella parola spirituale. Dobbiamo sapere questo. Quando parliamo di gradi e di definizioni, si tratta di anime e del loro punto di vista, considerando la loro comprensione di cosa possono ricevere in questo mondo. C'è una regola. Quello che noi non possiamo comprendere non può essere nominato. In questo noi vediamo la parola nome. Rileva la comprensione. Possiamo solo dare un nome a qualcosa quando abbiamo compreso circa la cosa. Vogliamo dare un nome o in altre parole solo quando c'è comprensione? Posso dare alla cosa un nome? Allora io posso dare alle qualità della cosa un nome. È scritto nella Torah. Il Creatore portò tutti gli animali ad Adam. E lui disse ad Adam, come li chiamerai? Il nome che dai a questi animali, così esso sia. Quale fu la ragione per il Creatore di agire in questo modo? Non il Creatore ha dato i nomi, ma lui lo lascia fare ad Adam. Abbiamo bisogno della comprensione perché la luce non ha un nome assoluto. Non c'è definizione per luce, nessun gusto. La luce è singolare, eterna, e non ha alcun gusto. Solo quando hai molti fiori puoi creare un bouquet. Solo allora è un enorme gusto. La comprensione di quel che il nome dovrebbe essere per un animale è molto importante, è l'essenza. Nelle Kabbalah abbiamo diversi nomi per il creatore, ma c'è un nome al di sopra, è Havaya. Yud-Hei-Vav-Hei. Ci do il nome in lettere ebraiche, Yud-Hei-Vav-Hei. Questo nome significa lui era, lui è e lui sarà. È un'elisione di tre significati. Del verbo essere. Devi pronunciare questo nome con la vera Kavanah. Con la giusta Kavanah, io intendo che ti rendi recepibile dall'interno per questo nome. Più tardi ti darò più dettagli riguardo il nome, ma lascia che ti spieghi prima come furono create le lettere. Prima abbiamo la lettera Yud. E da questa lettera sono arrivate le altre lettere. Come? Potrebbe essere più interessante continuare con questo argomento. Un nome è una cosa molto interessante. Yud è la prima lettera del nome Yud-Hei-Vav-Hei, Havaya. E questo è il nome eterno più importante del Creatore, con il significato di lui era, lui è. E lui sarà. Ti Perché questo nome? C'erano grandi cabalisti che si erano purificati. E con la purificazione intendo che si arrendevano completamente al superiore. E loro ci hanno dato questo nome. Certamente ci sono molti nomi, ma questo nome è il più importante. Questo nome è così importante, quindi lo pronuncio in un altro modo. Io dico Yud-Hei, Yud-Hei-Vav-Hei, le quattro lettere, ma il nome pronuncio come Havaya. In un altro ordine. Il nome Havaya è anche una possibilità? No, questo è sbagliato. Il nome Yud-Hei-Vav-Hei non, è non pronunciato, non pronuncio, io non pronuncio. Pronuncio Havaya. Havaya è lo stesso nome, ma pronunciato in un altro ordine. Ma ora ho pronunciato il nome come Havaya con l'intenzione di istruirti riguardo questo santo nome. Quindi posso usare il nome in questo modo. Nei primi tempi i cabalisti avevano sperimentato questo nome come molto potente. Non solo il cabalista, ma anche coloro che avevano sperimentato questo nome come molto potente. Potevano comprendere questo nome proprio come lui era, lui è e lui sarà. Dare un nome a qualcosa significa che c'è comprensione. I grandi cabalisti hanno sperimentato il potere di questo nome. E questo è stato possibile per loro perché avevano sacrificato loro stessi. Cosa significa questo sacrificare? In Kabbalah sacrificio significa che tu abbandoni la tua parte animale inferiore. Questo è quello che loro avevano fatto. E quando tu segui questi grandi uomini saggi, allora tu ricevi grado per grado la forza dall'alto. E questa forza è la forza vivente, la forza che dà vita a ogni cosa. Guarda queste quattro lettere, Yud, Hei, Vav, Hei. Leggi le lettere della tua destra a sinistra. Poi vedi Yud è la prima lettera e Yud è la lettera più piccola nell'alfabeto ebraico. Quattro lettere. Yud, Hei, Vav, Hei. E ogni cosa che vive lo puoi riconoscere in questo nome. Sulla destra abbiamo Chassadim, misericordia. E a sinistra abbiamo Gvura, severità. Chassadim significa la forza del bene. Destra, Chassadim e Chassadim sono entrambi la forza del bene, di qualcosa che dà vita. Destra è anche il lato maschile di un essere. E nella sinistra vediamo la forza della creazione stessa. La reazione della creazione, Din, severità. Din è sinistro, o in altre parole il nostro ego, il lato femminile di un essere. Quando pronunciamo il nome Avaya intendiamo queste quattro lettere. Ma noi non lo pronunciamo come è scritto qui, Yud Kei Vav Kei, Yud Hei Vav Hei. Solo una volta all'anno, nel giorno del Yom Kippur, quindi il sacerdote pronuncia questo nome. Perché? Perché è scritto nella Torah. Non pronunciare il nome in vano. Quindi leggi queste lettere in un modo separato, Yud, Hei, Vav, Hei, o insieme come Havaya. In un ordine non diretto. Questo nome deve essere nel tuo cuore. quel che hai nel profondo del tuo cuore non sono altre. 4. Perciò non pronunciare questo nome invano. Se trascuri questa regola, butti via il posto dove è nascosta questa forza. E quando hai bisogno di questa forza, dove puoi andare? Crei in te un posto per questo nome. Incidi questo nome nel profondo del tuo cuore. Tutto quello che stiamo facendo, leggere Zohar, pronunciare il suo nome, eccetera, eccetera, è dare alla luce la possibilità di venire dentro di te. Lascia che la luce faccia incisione dei santi nomi dentro di te. Perché nome significa forza, luce. E in queste incisioni viene la luce, forza. Questo è il nome Havaya, Yud Hei Vav Hei. C'è una forza enorme dentro queste quattro lettere. È tutto. Pronuncia questo nome come Havaya. Ci sono diverse varietà di questo nome, vedilo in questo modo. Anche tu hai tutti i tipi di varietà dentro di te. O in altre parole, considerando noi, ci sono tutti i tipi di varietà, considerando i nostri kilim, vediamo nomi diversi, ma considerando il creatore c'è solo l'esistenza di uno. E vedi questo nome come uno scheletro. Yud, Hei, Vav, Hei. Queste quattro lettere è lo scheletro di tutta l'esistenza. Un giorno vedrai e comprenderai questo. Tutto è costruito su questo nome. Certamente ci sono altri nomi, ma alla fine ritornano tutti a questo nome. Quindi, qual è il significato più profondo di questo nome? Prima non c'era niente, solo luce. E niente più. Poi ci fu qualcosa, esistenza. Puoi confrontare questo con un pezzo di carta bianca. Prima la carta è completamente bianca e poi c'è un piccolo punto nero. Qualcosa di così piccolo che persino un punto è troppo grande. Puoi trovare questa immagine nella Torah. Dentro la Torah vedi questo riscontro con il singolo punto. E il significato di questo punto è che c'era qualcosa, anche se piccolo, ma era uno e in su. Questo punto fu l'inizio della manifestazione. Da questo punto vengono le lettere, e le lettere sono un simbolo di qualcosa che esiste. E questo qualcosa è Keilim. Lascia che ti dia ancora l'esempio del pezzo di carta bianca. Prima la carta è bianca e poi un punto sulla carta. Le lettere sulla carta e tra le lettere ancora bianco. Puoi confrontare questi campi bianchi con l'aria, lo spazio. La Torah è scritta su pergamena. Tutti i tipi di lettere, posti vuoti, kilim, e composizioni, e questo riproduce la forza dell'universo com'è. Sapere come è costruito l'universo, non devi guardare alla notte. Prendi un pezzo di carta bianca e disegna alcune lettere. E quando ordini queste lettere nell'ordine giusto, tu vedi qualcosa. E nello stesso modo lui ha creato l'uomo. Lui lo creò con tutti i tipi di vocali e segni e i quattro elementi. Quattro elementi. È il quinto e la radice. Tutto è composto da questi quattro elementi. Tutto ciò che è nell'universo, piccolo o grande, queste quattro lettere sono lo scheletro di ogni cosa. Queste quattro lettere formano lo scheletro di ogni cosa. Permettetemi di darvi un altro esempio. Supponiamo che tutta l'aria della Terra è sparita. Cosa resterà? Non lo possiamo vedere, ma è lo scheletro di tutto. L'intero universo è creato da queste quattro lettere. Il minimo dettaglio è all'interno di questo nome. È tutto inizio con un punto. Un punto è l'inizio di qualcosa. È la lettera più piccola dell'alfabeto ebraico. È la lettera Yud. Ma non solo quello. Nell'alfabeto ebraico le lettere sono allo stesso tempo un numero. E Yud ha il numero 10. Nota. Ci sono 10 sefirot. Il numero 10 è il minimo assoluto. Il numero 10 è il minimo assoluto perché la lettera Yud è la lettera più piccola. Quando guardi attentamente alla lettera Yud, vedi che il punto ha una coda, ma in sostanza il significato del punto è la lettera Yud. È sempre in questo modo. Prima abbiamo il punto che viene dall'alto e poi lo Yud con la coda. È il collegamento con il basso. Non puoi vedere questo qui, ma quando guardi nella Torah, puoi vedere questo. Dall'alto riceviamo il punto, e il punto sta per Keter. La parola Keter ha il significato di radice. Keter è la radice di tutto. Il nome Yud è solo il punto. Vedi lo Yud come la lettera più piccola. Non hai bisogno di guardare al cielo. Prendi un pezzo di carta bianca e tu vedi Ein Sof. Non c'è ancora alcuna manifestazione. E poi, improvvisamente, c'è qualcosa. Yud. E da Yud va oltre. Questo Yud è l'inizio dell'alleanza fatta attraverso tutte le lettere. La lettera Yud è Chokhmah. È il significato di Chokhmah e saggezza. Luce, or Chokhmah, significa luce di saggezza. Il punto è l'inizio di ogni cosa. E nella Kabbalah lo chiamiamo il punto dello Yud. Non è una lettera, ma ha già un nome, Keter. Sul alto significato di Keter, vedi e leggi e ascolti il mio libro, l'insegnamento del Regno dei Cieli. E in questo vediamo che Keter significa radice. Qualcosa inizia, qualcosa comincia a crescere. Tutto ha una radice Keter. E il secondo è Chokhmah. E da Chokhmah c'è Binah e lentamente vediamo l'esistenza del mondo. In questo modo ogni desiderio viene in esistenza. Quindi ora vedi che c'è una gran quantità nella lettera Yud. E non solo nella lettera, ma anche nel numero vedi un gran quantità. Yud è 10 perché è la decima lettera dell'alfabeto ebraico. Più tardi spiegherò di più a riguardo. Dieci è un numero molto importante. Tutto è composto da 10 e Yud è la lettera più piccola. Cosa significa questo? Yud è la più piccola parte di esistenza. È l'elemento più piccolo sebbene tutto sia all'interno. 10 punti. 10 elementi all'interno di questo sol punto. Questo piccolo punto ha dentro di lui 10 punti, ma per ora è sufficiente. Continuo col il nome. Il nome Havaya. Leggi questo nome dalla tua destra a sinistra, Yud-Kei-Vav, Yud-Hei-Vav-Hei. Quindi vediamo che il punto è il primo, è questo, è Keter. Il secondo, o in un certo modo la prima lettera è Yud, e Yud è Chokhmah. La prima cosa che vediamo è Binah, è la lettera seguente, Vav. E l'ultima Hei è Malchut. Come ho detto prima, una lettera ha anche un numero e Yud ha il numero di 10. Quando guardi l'alfabeto ebraico, vedi la lettera Yud è la decima lettera. Vi ho anche detto che ogni cosa deve essere visto in questo nome. Così vorrei iniziare a spiegare questo. C'è la lettera Yud, e in ebraico posso scrivere Yud per esteso. Vedi, Yud Vav Dalet. Con tutte queste... Come si pronuncia questa lettera? Yud Vav Dalet. Yud. Con tutte queste lettere puoi ricercare l'universo, l'intero universo. Non hai bisogno di più. Tutto deve essere trovato all'interno di queste lettere. È colui che ha molta pazienza sperimenterà, ma soprattutto ha bisogno di tanta pazienza. Perché devi essere così paziente? Ognuno di noi deve purificarsi e solamente quando la purificazione ha luogo noterai l'esperienza. Non importa ciò che vedi perché non è dato all'uomo di spiegare questo, ma la conformazione verrà all'interno. E anche quando riceverai una piccola conformazione, sappi che significa molto. Realizza che esso è un miracolo per un essere di carne e sangue. Vedere l'Eterno, pertanto sii paziente. Ho già parlato di sfera o sfirot. Sfera è singolare e sfirot è plurale. In ogni sfera c'è forza e ci sono 10 o 5 sfirot, 10 sfirot o 5 fasi. È lo stesso. Quindi ci sono anche parecchie forze. Ogni cosa è in conformità. Quindi continuo con il nome di Avaya. Yud è la sfera Chochmah, e Chochmah è la forza di saggezza. Chochmah è la luce di saggezza, or Chochmah. Chochmah è la forza che dà, è la forza di versare. Questo è ciò che intendiamo quando parliamo delle forze maschili. È la forza che dà, che è versata dall'alto al basso. La prima Hei del nome Avaya è la sfera Binah. E Binah è la forza di limitazione. Lei è la prima limitazione. Abbiamo bisogno di limitare limitazioni, altrimenti come potremmo arrivare a capire? La luce deve essere limitata, altrimenti va dritta al di sotto, e come possiamo arrivare alla comprensione senza luce? La limitazione è molto importante, e la prima limitazione proviene da Binah. Binah è la forza di severità in ebraico, din, e Binah è la forza femminile. Tutti noi sperimentiamo la forza di severità di Binah in questo mondo. Puoi chiedere perché abbiamo bisogno di questa, di questo? E la risposta è perché era nel desiderio del Creatore. Il suo desiderio era di avere di più che solo luce di saggezza. Come già sai, uno contro l'altro è stato creato. È necessario avere entrambe le forze. Tienilo sempre in mente questo. Ognuno le utilizza per sperimentare queste forze in lui. Perché? Perché per unirle ancora una volta. Il valore numerico di Binah è 5. La lettera Hey è la quinta lettera dell'alfabeto ebraico. La prossima lettera è Vav, e Vav è la sfera di Zeirampin. Zeirampin è anche l'aspetto maschile, con il significato di versare. Il valore numerico di Vav è 6. Vav è la sesta lettera dell'alfabeto ebraico. È l'ultima lettera del nome Avaya. È ancora la lettera Hey. Ma ora è la Sefirah Malchut. Yud, Hei, Vav, Hei. L'ultima Hei. Il significato di Malchut è regno. Malchut è femminile. È con la forza di limitare. Ma si tratta di una limitazione molto severa. O in altre parole, lei è il cli perfetto. Lei ha anche il numero 5. Quindi ora vedi quattro punti di forza del Creatore. Lui ha creato queste quattro forze. Quando guardi da vicino, vedi che ci sono due lettere He. E la lettera He sta per la limitazione. Quindi abbiamo la prima limitazione e abbiamo la seconda limitazione. E perché? Ci sono quattro fasi e attraverso queste quattro fasi è stato formato il Cli. Abbiamo il nome Avaya più il punto. E anche questo punto è una fase. Ma in un certo modo questa fase è nascosta tra il Cli e la luce. O in altre parole, non è possibile parlare circa il Cli solo riguardo la luce. Lentamente, quando lo sviluppo ha luogo, significa che la luce è diventata più rozza, è dura fino a raggiungere l'ultima Hei, lo stadio di Malchut. Poi vediamo il Cli completo. E Cli significa anche desiderio, Malchut è il desiderio completo. Lo scopo della creazione. Il punto è nascosto dentro la lettera Yud e l'ultimo Hei è il completamento di un Cli. È questo completamento lo chiamiamo desiderio. Prima di questo non c'era alcun desiderio, Ein Sof, solo il punto luce. Possiamo confrontare questo con un pezzo di carta bianca. Non c'è nulla. L'infinito senza limitazione significa che non c'è nulla. Guarda un bambino piccolo che gioca sul pavimento con i suoi giocattoli. C'è solo la luce per lui. Senza luce intendo che non ha alcuna comprensione. In un certo senso è proprio come il mio gatto, che giace sul divano un giorno intero. Qualunque cosa accada intorno a lui non le interessa. Lui non è in grado di fare una limitazione, o in altre parole, non è capace di limitare l'informazione. Abbiamo bisogno di limitazioni. La prima limitazione non è stata sufficiente perché Binah è ancora molto vicina alla luce. C'è qualche limitazione in Binah, lei limita Chokhmah, ma non è abbastanza. C'era il bisogno di più limitazioni, quindi vediamo più grossolano. E il punto diventa la lettera Hei. E il grossolano cresce e cresce fino a diventare Malkut. Malchut è la più pesante grossolanità della luce. È la creazione.